24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'ennesima lunga giornata economica nel vecchio continente con i riflettori puntati su Atene e Cannes. Ad Atene regna l'incertezza massima sullo svolgimento di un referendum che potrebbe mettere a rischio l'Eurozona. A Cannes intanto il G20 prova a spegnere l'incendio della crisi nel vecchio continente. L'Italia tenta di dare prove concrete all'Europa di una volontà di azione sulle riforme. La Banca Centrale Europea taglia infine i tassi dando respiro alle borse. Oggi vi parleremo anche dell'attacco di matrice islamica al settimanale Charlie Hebdo e vi parleremo pure di turismo. La commedia, o meglio, tragedia greca ha caratterizzato questa prima giornata del G20 di Cannes, un summit che ha vissuto sui sussulti di quanto sta avvenendo ad Atene. Partiamo da qui con le ultime dalla Grecia, dove l'incertezza sul referendum resta massima. Ieri pomeriggio il ministro delle finanze Venizelos è uscito allo scoperto, affermando che la Grecia deve rassicurare i partner internazionali che farà immediatamente tutto ciò che deve per attuare l'accordo con l'Europa per il salvataggio del paese. Per Venizelos il paese ha bisogno della sesta tranche di aiuti prima del 15 dicembre. Poco prima il premier Papandreou aveva di fatto gettato la maschera sul teatrino degli ultimi giorni, rivelando il vero obiettivo di questa mossa: mettere l'opposizione di centrodestra con le spalle al muro e obbligarla a votare l'ennesimo pacchetto di misure di austerità. Tornando a Cannes, la prima bozza di documento del G20 lancia l'allarme sull'economia. L'economia globale è entrata in una nuova e difficile fase, con una domanda che si è indebolita, rischi di ribasso in crescita e calo della fiducia. I paesi del G20 si dicono pronti a lavorare a un piano per sostenere la ripresa a breve termine e ricostruire la stabilità del settore finanziario e bancario. Il presidente francese Nicolas Sarkozy a fine giornata ha tenuto la conferenza stampa finale, nella quale è apparso molto stanco. Se implode l'euro, implode l'Europa, ha avvertito. Poi un richiamo all'Italia. Il presidente Silvio Berlusconi ci ha riferito i risultati della riunione del governo, ne abbiamo preso atto con interesse, ma anche lui sa che la questione non è il contenuto del pacchetto, ma se questo pacchetto sarà applicato. E sentiamo ora un precedente passaggio dell'intervento di Sarkozy al G20 dedicato all'agenda del summit durante la conferenza stampa di metà giornata con il presidente americano Barack Obama. Nous avons eu un ordre du jour très chargé. L'agenda di oggi è molto fitta, perché gli elementi di preoccupazione non mancano. Noi abbiamo bisogno della guida del presidente Obama, della solidarietà degli Stati Uniti e di un'analisi comune su come rimettere il mondo sulla via della crescita e della stabilità. Noi cerchiamo insieme di costruire l'unità del G20. Voglio sottolineare la comprensione da parte degli Stati Uniti sui temi che ci hanno accompagnato nelle ultime 48 ore e in particolare quelli legati alla crisi greca e alle difficoltà dell'euro. Nel comunicato finale sarà inserita la convergenza con il presidente Obama per ciò che riguarda la tassa sulle transazioni finanziarie. Abbiamo confrontato i nostri punti di vista e trovato un'analisi comune per far sì che il mondo della finanza contribuisca alla soluzione della crisi attuale. Trovare un'analisi comune per far contribuire il mondo della finanza alla risoluzione della crisi d'oggi. The most important aspect of our task over the next two days. E per Obama il compito principale del G20 è risolvere la crisi finanziaria in Europa. L'Europa ha fatto passi importanti verso una soluzione complessiva, ha affermato il presidente americano, che ha assicurato come gli Stati Uniti continueranno a lavorare a fianco dell'Unione Europea per un solo obiettivo: rafforzare la crescita globale. Molti complimenti anche alla piccola Giulia, la figlia appena nata di Sarkozy, speriamo assomigli alla mamma, ha scherzato Obama. Intanto l'Italia cerca di andare incontro alle richieste dell'Europa, questi contenuti del maxiemendamento al quale il governo sta lavorando e che però non sono ancora in una versione definitiva. Prima il maxiemendamento alla legge di stabilità, poi un decreto per lo sviluppo, quindi un disegno di legge con le riforme strutturali. Queste le tappe e gli strumenti individuati dall'esecutivo per dare risposta alle richieste dell'Europa. Le prime misure approvate dal Consiglio dei Ministri arriveranno lunedì al Senato, si partirà dal riordino degli ordinamenti professionali, questi dovranno essere riformati entro 12 mesi. La bozza all'esame dei tecnici del governo prevede poi la liberalizzazione totale delle attività economiche. La norma stabilisce che l'inizio, la prosecuzione e l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale sono libere e non richiedono provvedimenti autorizzatori. Arriva un programma dedicato per le aree di crisi, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per attrarre nuovi investimenti. I fondi rotativi per le PMI riguarderanno anche la ricerca. Proroga quindi di 3 anni fino a tutto il 2014 degli degli incentivi fiscali di efficienza energetica, controllo quindi delle forniture con l'obiettivo di un calo delle bollette di gas e luce. Nasce un'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese che prende il posto dell'ICE già soppresso con la manovra estiva. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'altro avvenimento della giornata ora, il consiglio direttivo della BCE, presieduto per la prima volta da Mario Draghi, ha deciso di abbassare i tassi all'1,25%. Sentiamo Draghi. Based on its regular economic and monetary analysis, the governing council decided to reduce the key ECB interest rates by 25 basis points. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di abbassare i tassi di interesse di 25 punti base. L'inflazione è rimasta elevata e ci aspettiamo che resti sopra il 2% nei prossimi mesi, prima di scendere nel 2012 sotto il 2%. Ci aspettiamo che le attuali tensioni sui mercati finanziari indeboliranno il ritmo di crescita economica nell'area euro nella seconda metà dell'anno e anche oltre. Lo scenario economico resta soggetto a un'incertezza particolarmente elevata e a rischi al ribasso ancora più intensi. Alcuni di questi rischi si sono materializzati, il che porterà probabilmente a una significativa revisione al ribasso delle previsioni di crescita nel 2012. È essenziale che la stabilità dei prezzi sia mantenuta nel medio termine in modo da ancorare le attese di inflazione in linea con il nostro obiettivo di un'inflazione sotto, ma vicina al 2% nel medio termine. Infine, la decisione di oggi è stata unanime. The decision was unanimous. Dicevamo delle borse in apertura, con una giornata molto positiva sull'attesa di una cancellazione del referendum greco e anche grazie al taglio dei tassi. Nella giornata dell'esordio di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea, Piazza Affari ha vissuto una seduta positiva, soprattutto grazie al rialzo dei titoli industriali. Il taglio dei tassi BCE e alcune trimestrali positive hanno trainato i listini. Il FTSE UE ha terminato in rialzo del 2,98% e il FTSE MIB del 3,23%. Maglia rosa è stata Tenaris, balzata del 14,6%. La società annuncia un utile trimestrale salito del 21% e un acconto sul dividendo di 13 centesimi di dollaro. I vertici stimano inoltre di vedere crescere il fatturato anche nei prossimi trimestri. Secondo rialzo consecutivo per i titoli della Galassia Fiat, che hanno beneficiato anche dell'aumento della quota di mercato del gruppo in Italia nel mese di ottobre. Fiat SPA ha guadagnato il 5,59%, Industrial il 6,8% ed Exor il 4,95%. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo ora pagina. L'attacco di matrice islamista contro la sede parigina del settimanale Charlie Hebdo prosegue attraverso il web. Migliaia di messaggi minacciosi hanno spento il sito della rivista francese. Il presidente della conferenza degli imam di Francia, Hassan Chalgoumi, ha condannato l'attentato che ha distrutto la serie del settimanale Charlie Hebdo, reo di aver annunciato un numero speciale intitolato Charlie Hebdo, con tanto di Maometto fatto direttore della testata. Tutto questo per celebrare, ironicamente, la vittoria del partito islamico Hennada in Tunisia. L'imam Chalgoumi, tunisino anch'esso, ha parlato chiaro condannando i responsabili di un atto definito criminale, che non ha nessuna giustificazione e che non aiuta in alcun modo l'immagine dell'Islam nel mondo. Intanto il settimanale satirico è comunque in edicola, ospite delle pagine del quotidiano Libération, grazie al quale la redazione oggi rivendica la sua libertà di derisione. Unanime la condanna, ma resta il fatto che per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un giornale è il bersaglio nel pieno centro di Parigi di un atto di distruzione criminale. La Francia torna dunque a interrogarsi su come difendere il modello di laicità emerso in Europa proprio dalle rovine dell'intolleranza di Stato e che oggi invece deve difendersi dall'intolleranza delle minoranze. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Torna il sereno sul turismo mondiale. Nel 2011 gli spostamenti internazionali sono aumentati del 4-5%, lo afferma uno studio del Touring Club. Sentiamo il presidente Franco Isè. Si continua a viaggiare e soprattutto c'è un ritorno verso l'Europa che segna un un punto interessante di incremento. Non mancano anche però alcune preoccupazioni, perché nel sud del Mediterraneo si sentono gli effetti della crisi geopolitica. In Egitto si è perso il 40%, in Tunisia più o meno la stessa cosa. Quindi, ecco, per quanto riguarda invece più nello specifico l'Italia? Ci sono due dati buoni. C'è una stima che per 2011, dove si prevede proprio un aumento della spesa del 4-5%, e quindi diciamo quello che gli stranieri porteranno qua sarà qualcosa come un 30 miliardi di euro, che non sono pochi. C'è anche un dato molto positivo sugli italiani che vanno all'estero, i nostri connazionali, che sono anche questi aumentati, che non è una roba da poco. C'è anche però da dire che per quanto riguarda gli italiani ci sono molti che non hanno viaggiato. Il fatto che il 53% non abbia fatto le vacanze rispetto al 49% dello scorso anno dice che le motivazioni economiche sono state molto molto incisive su questo dato. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.